voglio svuotarmi, darmi un senso, tirarmi fuori da tutti gli inganni che penso. Vorrei soltanto capire se c'è un posto per me, se tutto questo è soltanto un sogno, oppure c'è una sostanza di reale intorno. Ho fatto cose, ho detto cose, ma in fondo ero drogato d'amore, d'emozione, di paure. Non ho detto mai quello che pensavo. Lo sentivo forse, ma non era quello che avevo in mente. Ero confuso tra la gente, indifferente, come un angelo senza ali, votato all'inganno, perso, confuso, ali nere, porto, e dentro sento soltanto un lamento. Ma ora sembra quasi tutto pulito, e perdo tutto il sogno che potevo e avevo. Voglio qualcosa di nuovo, qualcosa, in fondo ci spero in qualcosa di migliore nel mondo, ci spero in un posto migliore su questa terra. Rimane la guerra tra gli uomini, forse, ma sempre una guerra per terre migliori. In fondo coltiviamo fiori, razziamo animali, ma quello che rimane è tutti i nostri mali. Taciuti, confusi, dentro silenzi, perduti, rimangono le assenze dell'anima che piange e nessuno lo sente, e anche se è il sorriso che mente, tutti quanti lo sanno che stai soffrendo veramente. E tutto quanto torna, tutto quanto di sbagliato cazzo torna, e non c'è mai un nuovo motivato dolore, un nuovo motivato sentire, sembra quasi che tutto debba declinare. Non lascio la responsabilità agli altri, me la prendo, forse questo è il mio male più profondo. Io cerco di capire me stesso, oltre la nebbia, cerco una salvezza in questa strada, che sembra una fortezza persa, un re senza corona, senza l'amore di una regina. E in fondo eravamo bambini, giocavamo, poi siamo cresciuti, ci siamo presi per mano, in fondo poi abbiamo litigato, perso le strade, ci siamo abbandonati, abbandonato l'istinto, abbandonato il senso di tutto quell'affetto, siamo entrati nel raziocinio più profondo e ciò che era un cigno è diventato pieno di cicatrici causate da tutti quei mali del mondo che ci affollano, ci dividono, e in fondo ciò che scrivo è ciò che scrivono. Le pene dell'inferno le abbiamo passate tutti, sono momenti, forse belli, forse brutti, c'è chi piace, c'è chi non ha cicatrice, da fastidio sul volto come un torto al collo. In fondo io so di ciò che ho bisogno, so che in profondo dentro me trovo un senso. Se ho l'amore intorno, il bisogno dell'affetto, il compromesso, qualche volta il tuo difetto, il mio difetto, e tutte volte spinti dentro a un solo ghetto, il ghetto del cuore, il ghetto della mente, dove tutto è rovina, dove tutto passa indifferente, lasciamo soffrire anni, tutti quanti poi tornano gli inganni, rimangono gli affetti.